Sa, sì, boom, questo va. Come ci conosciamo, Sa, abbiamo fatto compagni di liceo, poi compagni all'accademia. Tanto sto facendo. Hai sentito? Sì. Compagni di vita, Sa, sì, funzionano tutti e tre. Volete provarli con le vostre vocine? Abbiamo provato già noi. E allora? Quale volete voi? Dire che tra 5-10 minuti iniziamo. No, 5-10. 7. Cioè, Alberto Vitale, ragazzi, c'è Alberto Vitale, un applauso, grazie. Che per fare il giovane ha una maglietta di Goldrake. Cioè, ciao, benvenuti, buonasera! Buonasera e benvenuti a questa scoppiettante serata! Dani, non ti sento. Ho gridato, ho gridato. Sì, noi abbiamo la nostra clac, sappiatelo. Ma c'è Daniele, Stefano, giusto? Riz Folli. Quanto funziona la clac? Fateci sentire. Eccezionale. Raga, la clac deve essere contagiosa però, eh. Li mettiamo in competizione con Riz Folli, vai di clac. Mi sa che optiamo per quello. Così, questo è l'inizio dello spettacolo, è l'apertura che coinvolge il pubblico, lo scalda per poi farlo trovare pronto al primo artista. Basta. Sei bravissima, direi... Silvia, no? No, a questo punto io... T'eri preparata solo questo? Sì, mi ero preparata solo questo, il mio considero di averlo fatto. Va bene, raga, allora ognuno dice qualcosina. Viva, tu Alberto te la senti? Sì, ci provo, sì. Vuoi iniziare tu? No, mi metterei in mano. Devo iniziare io. Vai. Ora io non mi sento tanto bene stasera. Non sapevo se dirvelo, che poi vi preoccupate, no? Cioè, c'è il Papa che sta male, c'è Berlusconi in ospedale. È uscito, peccato, no? Dici no. Si dice, sta male anche Henry Veronica, poi vi preoccupavate troppo. Poi non è bello iniziare, ci resto tanto male, perché sembra che uno voglia fare pietà. E in effetti è quello il target proprio. Perché se uno impietosisce il pubblico, no, se lo tira dalla sua, Perché a meno che non si trova il pubblico cinico, tipo voi magari. Però il pubblico cinico ride delle disgrazie. Quindi essendo uno spettacolo comico vai comunque alla pari, no? Perfetto, il comico, il tragico. Ma stai andando bene, Silvia, ma facciamolo tutto così, questo cazzo di spettacolo. Silvia. Ma facciamo praticamente una conferenza, facciamo. Ma sì! Dai, spara le slide. Sparaci le slide. Oh, ma Alberto Vitale che faccia da slide? No, slide, io c'ho i lucidi, c'ho conto qua ancora. Si vede che è un professionista, però tipo anni 90. Esatto. Oh, mi hanno detto non sappiamo cosa fare, non siamo pronti. Ma Silvia Conti. Sì. Sono prontissima. Ma Dio, serio proprio. Sei bravissima. Sì, io sono qua per parlare dei miei problemi. Cioè, magari lui la prende più come una conferenza, io la prendo più come una terapia di gruppo. E tu come la prendi? Io malissimo. Sì. Ma penso anche loro probabilmente. Ma guarda che secondo me è il pubblico giusto stasera. Un pubblico, sei quello che ascolta. Cerca di capire, non vuole essere invadente, insomma, quel tipo di pubblico lì che comunque ci piace, ti assolutamente. Piace? Assolutamente, sì. Ma a me piace qualsiasi tipo di pubblico in realtà, ragazzi. Ora, questo era un inizio per farli un po' scaldare. Per farli scaldare, sì. Senza battute. Tiepidini. Vabbè, vogliamo provare a chiamare i classici applausi come fanno... Ma li abbiamo già chiamati, cioè. No, sì. Ma... Ma secondo me voi... No, squadri no, locali, no, fermi. Ah, ma proprio quegli applausi... Quelle robe banali, sì. Oh, ma non ci siamo presentati, non so se... Cioè, magari ci sono rimasti un attimo male. Avranno riconosciuti la locandina di Enrico, sicuramente. Quanti hanno visto la locandina di Enrico? Perfetto. Allora ci hanno riconosciuti da lì. Quando il marketing funziona, ragazzi. Che era di Enrico. Ma e quindi come avete saputo di questa serata, così per curiosità? Perché non ci aspettavamo. Hanno perso una scommessa, secondo me. Sì. Contavamo di farlo solo per quelle due o tre persone che conosciamo, non ci aspettavamo il pubblico. Sì. E non abbiamo preparato nulla, si vede tra l'altro. Cioè ci ha preso un po' la sprovvista, ma ce la facciamo, secondo me, in corso d'opera. Sì, comunque lui è Enrico Veronica, grazie. Quello che l'evento identificava come la bomba sexy della comicità italiana. Questo vestito sexy è Alberto Vitale, è il buon padre di famiglia del cabaret italiano. Assolutamente. E io sono Silvia Conti, quella che ha tanti problemi di cui tra poco vi parlerà. Io lascerei il palco al primo grande artista di questa sera. Forse sì, forse ora. Ci togliamo sì, dal vuoi. Cazzo? Sì. Ah, così, è molto... Così, sì, non ma... so, volevo... No, siccome mi hai detto che vuoi annunciare, mi sembri proprio sul pezzo stasera, no. Fai tu. È che da questo lato poi gli passo davanti, vabbè. No, vabbè, allora... Come gli passi davanti? Gli passo dietro, mi inciampo. Allora... Primo artista. Ma, ma è bellissima sta serata. Ma è no, ve lo so, a loro non piace, però. Vabbè, ma poi la rielaboreranno tra qualche mese. Sì. No. Dimmi. Prego. Primo artista di questa scoppiettante serata di cui amerete parlare a casa con i vostri cari e anche probabilmente con il vostro terapista, Alberto. Ma sai che ho visto una bella serata? No, scusate, stavi arrivando proprio al picco. All'apice. Stavi al picco per... Dire non se l'aspettavano. Però... Non se l'aspettavano. No, non ti disturbo più. Però l'abbiamo... Facciamo finta, rewind. Ma a me non dispiaceva parlare degli animali domestici. Vero. Ricomincia. Tutto il preambolo di prima con come parole finali Alberto Vitale. Non se l'aspettavano. Allora, noi alla grande. Daniele, vai di clac. Come? Clac. Ah, vabbè. Allora, no, davvero, non ci aspettavamo effettivamente pubblico, è vero, ci aspettavamo molto meno, e questo tra l'altro mi manda, vi dico la verità, un po' in ansia, perché io soffro di agorafobia, che come sapete è la paura delle parole greche, quindi spero non ordinate uno uzo, che sennò mi manderebbe un po' in crisi. Allora, buonasera a tutti, come avrete capito non sono un millennial, l'avete capito dal fatto che ho detto buonasera a tutti e non ciao bro. Sono un old century, in realtà, e tra l'altro faccio outing, quest'anno compio ben 50 anni, pensate un po', eppure sono ancora qui. Grande! Grande, sì. 50 anni è quell'età un po' particolare in cui sembra, quando abbiamo un cellulare in mano, che ci facciamo sempre un selfie. In realtà stiamo solo cercando di leggere, che teniamo a questa distanza così. È un'età sicuramente un po' particolare, diciamo, mentre da ragazzi si parla con le ragazze, ecco, attorno ai 50 anni si parla con i manichini di Intimissimi. Tra l'altro io ricevo gli stessi risultati di quando parlavo con le ragazze, ma queste sono robe mie. A 50 anni è un po' strano, ve lo dico, ci arriverete, molti di voi ci arriveranno, e non posso parlare con le ragazze di 30 anni più giovani, perché sembra che ci provi, cosa che peraltro è vera, e non posso stare con le persone di 30 anni più vecchie, perché ha una dignità, ve lo posso dire. Dignità che peraltro finisce a 53 anni, quindi ho gli ultimi 3 anni e poi posso provarci anche con le vecchie. Provarci con le vecchie, che peraltro ha i suoi vantaggi, ve lo dico per chi fosse interessato, ha dei grandi vantaggi, ad esempio loro hanno case di proprietà, quindi già è comodo, si spende molto meno tra l'altro per sedurre una vecchia, perché mentre la ragazza giovane la deve portare fuori, magari gli offri la cena da bere eccetera, con la vecchia la porti fuori e basta che le offri una tisana alle 3 o 4 del pomeriggio, quindi grande risparmio. Non serve neanche vestirsi tanto bene, l'importante è avere sotto la maglia della salute, quindi ha solo vantaggi. C'ha uno svantaggio, diciamo, stare con una vecchia, perché dopo che ci fai sesso così casuale, occasionale, non puoi scappare via all'alba mentre lei dorme, perché all'alba lei è sveglia, quindi ti becca subito, eh? Questo è uno svantaggio abbastanza brutto. Vabbè, comunque, quando lasciamo stare le vecchie, che sono la mia grande passione, ma sicuramente anche la vostra. 50 anni comunque, tempo di riflessioni, quindi, e parlare anche di vecchie mi può non far pensare a mia nonna, e che cui peraltro non ho fatto sesso, vorrei specificarlo, non si sa mai che nell'arco della serata potete pensare cose del genere. Mia nonna aveva i famosi, come tutte le nonne, i famosi rimedi delle nonne, quindi che so, mi ricordo ad esempio quando ero malato, non so, avevo il raffreddore e lei mi diceva metti un po' di lasagne sotto il naso. Avevo mal di pancia, metti un po' di brasato sullo stomaco. Oppure mi facevo male, che so, un ginocchio, avvolgici sopra del vitello tonnato. Devo dire, mia nonna non ha mai saputo niente di medicina, però era un'ottima cuoca. Era eccezionale. Pensare un po' così alla mia infanzia mi fa venire in mente quando ero anche bambino, quindi un po' il mio periodo dell'infanzia. Io ho passato l'infanzia tra Roma e Zurigo, a Bologna. Ho passato tutta la vita a Bologna. E Bologna è una città molto bella, mi manca tanto, una città che però ha una sua vita sotterranea, non so se voi lo conoscete, una vita sotterranea fatta di invidie, di ripicche, di lotte clandestine. Bologna infatti è piena di circoli del PD. Io a Bologna avevo un soprannome, visto che Bologna è molto politicamente chiusa, diciamo, io a Bologna mi facevo chiamare Elce, lo dico, perché ho fatto solamente metà del CEPU, poi ho abbandonato, non ce la facevo più, quindi è stato duro, però bello, bello insomma. Poi niente, mi ricordo della mia infanzia a Bologna, il periodo della scuola, è stato un periodo molto bello, io mi ricordo le prime fidanzatine, ricordo la prima bambina, la prima ragazzina con cui sono stato, era una ragazzina molto molto carina, una ragazza acqua e sapone, ogni volta che l'abbracciavo mi sgusciava via. E mi ricordo degli elementari, quel periodo in cui ci sarà anche adesso, immagino per voi che siete più giovani, in cui ci si scambiava i bigliettini con scritto ti vuoi mettere con me? E c'erano le due caselle, sì, no, immagino che succeda ancora. All'epoca mia mi ricordo fu solo una ragazza che mi mandò un bigliettino e si chiamava Laura, era la figlia di un promotore del comitato referendario. Nel suo bigliettino c'era scritto vuoi abrogare il nostro servizio interpersonale verso una forma di amicizia più duratura? Sì, no. Niente, non ho mai capito se sì voleva dire no, no voleva dire sì, niente, quindi alla fine non è successo niente, è stato un momento terribile, vabbè, peccato. Sempre alle elementari mi ricordo che in classe mia c'erano, pensate, due gemelli, era una classe particolare, due gemelli, si chiamavano Luca e Gianni, ed erano quei gemelli omozigoti che sono indistinguibili, era una roba incredibile ed era davvero strano vederli comunque così uguali già da piccoli. E già all'epoca mi ricordo che era una cosa affascinante il mondo dei gemelli, no? Tuttora è affascinante il pensiero che queste due persone siano collegate anche mentalmente. Si dice che addirittura il dolore di uno possa essere provato dall'altro a distanza, è una cosa eccezionale. E io per provare questa cosa, ogni mattina avevo già uno dei due di fianco, lo pungevo con un chiodo arrugginito per vedere se l'altro provava dolore. Allora, non è mai successo, però sono riuscito così a distinguerli perché Gianni era quello con il braccio gonfio per il tetano. Poi sono andato avanti così nella vita, a 18 anni ve lo posso dire, sono andato all'estero, quindi lo consiglio a tutti voi, è stata dura, ho passato un periodo molto duro perché all'estero comunque bisogna abituarsi a una lingua diversa, bisogna abituarsi a usi e costumi diversi, è stato difficile ve lo dico, però dopo 3 anni a San Marino alla fine sono riuscito a ambientarmi tranquillamente. Sì. Sono tornato, ho fatto un po' di lavori, ho fatto un po' di cose, così ho fatto i lavoretti che fanno un po' tutti, ho fatto anche lo spogliarellista, può sembrare strano ma è successo, ho fatto lo spogliarellista, ricordo una volta ho fatto una serata in una discoteca frequentata da Colf Filippine, io mi toglievo i vestiti, li lanciavo e loro me li tiravano indietro lavati e stirati. Ho fatto un corso di teatro, così per essere più bravo, perché i miei credevano tanto in me, mi dicevano fai comicità, sarà la tua gallina dalle uova di bigiotteria. E ho fatto un corso di teatro, a me piacevano i polizieschi, quindi ho fatto il corso di teatro Stanislavski e Hatch. Poi ho fatto anche un corso di ballo, per essere un po' più morbido nei movimenti, ho fatto il corso con Roberto Ebola, facevamo una lezione e 40 giorni di quarantena. È stata un po' pesante. E niente, poi alla fine in quel periodo ricordo non sapevo cosa volevo fare nella vita come tanti e non sapevo se fare l'oculista o il meteorologo. È stato un momento un po' difficile, adesso sono contento, sono riuscito a fare tutti e due, sono abbastanza soddisfatto e sono un oculista specializzato nelle cure dell'occhio del ciclone. Sì, sì, sì, sì. Va bene, no, va bene, lascio lo spazio anche agli altri, allora vi saluterò. No, come no? No, vabbè, allora vi dico solo che uno dei miei migliori amici d'infanzia si chiamava Marco, era un ragazzo, lo dico così si può dire, insomma, gli mancava il braccio destro, però in compenso ne aveva due a sinistra, così in parallelo, e comunque un ragazzo che riusciva a fare qualsiasi cosa e si è integrato perfettamente nella società. Ecco, l'unica cosa che era un po' brutto da fare era andare in barca, perché se remava lui si girava sempre intorno. No. Detto questo, vi saluto come un vero millennial, cioè ciao bro! E lascio lo spazio a Silvia Conti! Grandissimo Alberto Vitale, io invece ci tengo a dirlo che sono millennial anche se sembro vecchia anche io. e io adoro queste serate di stand up, e vi potreste chiedere che cos'è che mi piace di più, se è lo scambio con il pubblico, se è il rapporto con gli altri artisti. No, a me piacciono queste serate perché mi consentono di spalare merda su mio marito con un microfono in mano. Io nella vita ho fatto tanti errori, uno di questi è stato mettermi un maschio etero in casa. Non so se avete presente come funziona quelle volte che magari vai a fare merenda da una tua amica e lei ti offre dei biscotti con il tè, assaggi quei biscotti e pensi che sono buonissimi, che tu nella vita non vorrai mangiare mai più altro che quei biscotti, quindi esci da casa della tua amica, ti fiondi al supermercato, trovi quei biscotti e li trovi anche in offerta, riempi il carrello, a casa stipi la credenza e inizi a mangiare quei biscotti a colazione, a pranzo, a cena, per un giorno, due giorni, tre giorni, al terzo giorno li odi, ma ormai hai la credenza piena? A me piaceva il cazzo e me lo sono messa in casa. Continuiamo, dubbio che spesso le donne del pubblico hanno, come ho fatto a trovare un maschio etero a Milano, l'ho preso in Veneto. Per spalare merda su questo marito che ormai ho, cominciamo a parlare di vacanze, perché tutti dalle vacanze vogliamo qualcosa, c'è chi si vuole rilassare, c'è chi in vacanza vuole rimorchiare, c'è chi viaggia per trovare se stesso, perché viaggiare è una passione, come scrivono sul curriculum quelli bravi, quelli che poi vengono chiamati a fare i colloqui al posto mio, che nella sezione interessi di solito scrivo podcast di true crime in cui l'omicida è una donna, il delitto avviene in ambiente di lavoro. Io dalle vacanze voglio solo una cosa, voglio le foto per i social. In particolare voglio delle foto in cui sembra che sono buona, delle foto che mi sfinano, delle foto che potenzialmente userei su Tinder se tornassi single. Io non mi vergogno di dire che questo delle foto delle vacanze in cui sembra che sono buona è il mio più grande desiderio nella vita. Cioè, io se trovassi la lampada magica la sfregherei al genio, chiederei foto delle vacanze in cui sembra che sono buona, e questo è il momento in cui potete giudicarmi e sentirvi delle persone migliori di me, perché la stand up non serve solo a me, serve anche a voi, altro che quella puttanata della catarsi del teatro greco. L'ostacolo che si frappone tra me e questo grande desiderio delle foto delle vacanze in cui sembra che sono buona è che io non sono single, io sono sposata, e le foto me le deve fare quell'incapace di mio marito che da anni sto cercando di addestrare a diventare un decente foto marito. Se parlo di foto marito, tutti più o meno sapete di che cosa si tratta, anche se non seguite quegli account tipo Boyfriends of Instagram. Se siete stati in vacanza al mare ne avrete visti a decine aggrappati agli scogli durante la mareggiata con una macchina fotografica al collo, e in montagna li avrete visti appesi alle ferrate senza imbragatura, sempre con la macchina fotografica al collo, e qua a Milano se ne vedono a decine sdraiati ventre a terra sul binario del tram, ma non su un binario dismesso, su un binario dove passa un tram ogni 3 minuti. Ovunque voi abbiate visto un fotomarito, lui stava rischiando la vita per fotografare una donna e aveva tutta la mia ammirazione. E dico ammirazione perché qua non abbiamo il proiettore, altrimenti avrei messo la gigantografia del meme della ragazza orientale con le gambe spalancate sopra la fontanella che sgorga, perché quello è il tipo di ammirazione che mi suscita un bravo foto marito. All'inizio della nostra... Grazie, clac! All'inizio della nostra relazione il mio attuale fotomarito promette bene, e qua spero che apprezzerete il cambio di ritmo, di tempo verbale, di tono della voce, come si fa nei podcast di True Crime per riacchiappare la vostra attenzione. Ci frequentiamo da qualche giorno quando lui mi dice: sei carina stasera, ti faccio una foto. E io gli dico, ma no, ma dai, indosso uno straccetto. In effetti indosso 150 euro di vestito che ho comprato 2 ore prima perché ero disperata, e 300 euro di scarpe che mi stanno anche facendo sanguinare i piedi perché le ho prese online di un numero più piccolo, un giorno in cui ero in preciclo in una svendita. Comunque una volta in un podcast di True Crime ho sentito dire che il preciclo può valere come attenuante nei casi di omicidio, quindi figuriamoci se non lo posso far valere io il preciclo come attenuante nei casi di shopping compulsivo. Lui mi chiede una foto e io alla fine mi metto in posa, ma non troppo. Lui scatta, io mi avvento sul suo telefono e gli chiedo, mi fai vedere com'è venuta? È lì che rivelo la mia vera natura di committente e inizio con le mie richieste, tipo, mi fai una foto a figura intera, però taglia le ginocchia. Sì, devi prendere dalla testa ai piedi, anche le scarpe da 300 euro, zio, ma devi tagliare le ginocchia. E sembra una richiesta strana, però sarà perché all'inizio della nostra frequentazione lui si impegna tantissimo e ce la fa. Riesce a farmi una foto a figura intera in cui taglia le ginocchia. Mi sembra che sia un genio, mi sembra che sia il Cartier-Bresson del Samsung S20. Lui pensa che sarà tutto materiale e tutti i ricordi destinati all'uso interno della nostra coppia illuso. È tutto materiale per i miei cazzo di social. È lì che lui capisce che nella maledetta dinamica della coppia eterosessuale della quale è entrato a far parte si dovrà immolare per il bene supremo, che è la soddisfazione della committente, che sono io, nei confronti della propria immagine sul telefono e soprattutto nei confronti dei like ricevuti su Instagram dalle sue amiche, laddove per amiche intendiamo competitor nella guerra senza quartiere delle foto in cui sembra che sono buona, e dei suoi amici, laddove per amici ovviamente intendiamo ex fidanzati che devono vedere bene che cosa si sono persi, i bastardi, e magari farsi scappare qualche like mentre scorrono il mio feed per dedicarmi una sega commemorativa. Le foto non mi bastano mai, è come una droga, io ne voglio sempre di più e le voglio sempre più artistiche. Una sera siamo sui Navigli e ho un'idea geniale, gli dico, dovresti farmi una foto presa dal basso che metta in evidenza il quadricipite che mi sono fatta quest'anno in palestra, però non deve essere una foto impostata, deve essere più tipo scatto rubato, cioè una foto che tu mi fai di tua iniziativa senza che io me ne accorga, perché tu di tua iniziativa vuoi immortalare questo mio straordinario momento di eccellenza muscolare. E questo è uno dei ricordi più belli della nostra coppia, perché lui quella volta è stato super proattivo, si è buttato nel Naviglio con l'acqua fino alla cintola e dal basso ha scattato verso il mio quadricipite. Poi vabbè, ha preso la multa perché la balneazione nel Naviglio è vietata, gli sono venuti funghi sulle cosce, anche sullo scroto, ha avuto prurito per 30 giorni, ma io quella foto ancora la uso come foto profilo su LinkedIn, e su Instagram ben 3 dei miei ex mi hanno messo like. Grazie a tutti, ripasso tra poco a parlarvi nuovamente di seghe, ma ora lascio la parola al maestro dell'autoerotismo, a colui che stanotte sarà la persona a cui penserete tra le vostre lenzuola, Enrico Veronica. Grazie Silvia Conti. Benvenuti, bentornati. Io c'ho sempre questa enfasi che si sgonfia subito. Ora, è una bella serata, eh? Bella, di intellettuali, io non pensavo. Ora poi Alberto, Silvia, sono ottimi amici, sono grandi artisti. Sono come me da, Silvia praticamente l'ho vista nascere. Poi in realtà poi in sala parto l'ho capito quasi subito che non ero davvero un'ostetrica, anche perché questo è un consiglio a tutti quelli che si fingono ostetriche, cioè non cominciate a masturbarvi in sala. È lì! È in quel preciso istante che vi beccano che non siete davvero un'ostetrica. Pensate i rumori della sala parto, le voci, oh congratulazioni, un maschio e una femmina, 2 gemelli, cosa sta facendo? Poi tra l'altro avete già capito che io sono oltre, cioè io non solo mi sono finto ostetrica, ma ostetrica finlandese. Quindi quando mi hanno chiesto, ma lei cosa fa? Si masturba? Cioè, non sapendo una parola di finlandese, sono dovuto scappare, cioè. E questa è una delle mie grandi avventure, è finite male, cioè finite male. Ora però si comincia e si parla di cose serie. Voglio cominciare volando altissimo. Parliamo di bullismo. Ora, il bullismo è una cosa da condannare, deprecabile, soprattutto se fatto magari ai danni di chi ha delle deficienze fisiche, intellettive, eccetera, conclamate. Ora, il caso più eclatante è quello di Stevie Wonder, voi lo conoscete, no? Ora io vi racconto il retroscena. Perché voi sapete la storia, secondo me, spicciola. Perché io ho tutte le mie fonti che naturalmente non posso dirvi. Ora, Stevie Wonder è famoso per la sua capigliatura afro, no? Cioè, con le sue, che se la fa anche adesso, che non so se avete i capelli, gli partono da qua adesso, Stevie. Ma lui, soprattutto negli anni Ottanta, l'aveva fatta particolarmente ridicola. Aveva sì le treccine, ma impreziosite da tutti dei nastrini colorati, delle perline, dei ciondoli, è andato avanti 10 anni, ma lui non lo sapeva però. È uno scherzo che gli ha fatto il suo parrucchiere di fiducia. Adesso vi dico la vicenda vera, perché io... Perché poi è il Veronica che vi dice retroscena. Voi sapete le robe che vedete su Google, ma in retroscena c'è il Veronica a dirveli. Nel 1981, storia vera, Stevie Wonder va dal suo parrucchiere di fiducia, Frank, e gli dice: Frank, io domani mattina ho un colloquio di lavoro particolarmente importante. Non è che mi puoi fare la capigliatura la più seria che puoi? Sì, sì, Steve, ci penso io. E l'ha conciato così! Per 10 anni! Una roba terribile. Certo, erano gli anni Ottanta, eh? Era un'altra epoca rispetto adesso. Adesso c'è stato il Me Too, le campagne di sensibilizzazione contro l'abilismo, l'omofobia, il razzismo. Ci sono stati gli spot TV inclusivi, importanti secondo me. Importanti, però poi lì, come al solito, quando sfugge la mano si crea l'effetto paradosso e certe cose diventano controproducenti, per esempio gli spot inclusivi con le coppie gay. C'è stato questo fiorire negli ultimi anni, donne, uomini, coppie gay, poi quelli che fanno le pubblicità, che in realtà sono dei geni, sono dei creativi, l'hanno capito che proprio statisticamente avevano messo troppe coppie gay e hanno cominciato a levarle. Negli ultimi mesi hanno cominciato a levarle, ma ormai la frittata era fatta, perché l'utente medio, ragazzi, l'utente medio sono io, una persona sensibile, è un abitudinario. Ho visto uno spot settimana scorsa dell'Enterogermina, ma il brand non ci interessa adesso, ed è una vicenda tranquillissima, è la cronistoria di questa amicizia di due amici maschi con le foto, sono amici dalle elementari, poi al liceo, poi si laureano assieme, poi finisce lo spot, io ve lo dico brutalmente, ma davvero ho pensato, ma questi quando è che se lo buttano nel culo? Ma ci sono rimasto deluso, ma proprio deluso, perché sono sensibile, io credo nell'amore, mi piace il lieto fine, assolutamente. Voi mi direte, Harry, stai tranquillo, perché due maschi, amici maschi, non hanno paura di rovinare una splendida amicizia col sesso, è vero? E qui entriamo nel luogo comune, è vero che forse il maschio, l'uomo, si farebbe anche Godzilla con le mestruazioni. Ora, lo so che è un luogo comune, però sfido tutti gli uomini in sala, appena ha sentito Godzilla con le mestruazioni, se non si sono un po' eccitati sessualmente. Cioè, io sono eccitato come una belva, ma io sono sensibile però, lo premetto. Però già che siamo in tempo di luoghi comuni, cioè violentiamoci fino in fondo. Cioè, io l'ho scoperto in età adulta che Godzilla in realtà era un esemplare femmina di lucertolone gigantesco e mostruoso che distrugge Tokyo. Magari voi l'avete scoperto prima, siete più intelligenti. E allora, già che siamo in luoghi comuni, ma è possibile, cioè è plausibile che Godzilla avesse questa forza devastatrice perché fosse in pieno ciclo mestruale? Distruggesse Tokyo per questo. Allora, io lo premetto, non so nulla di cicli ormonali e mestruali di enormi lucertoloni geneticamente modificati dalle radiazioni, lo ammetto, premetto, non le so queste cose, però è plausibile sta cosa, no? Io mi immagino che sì, può essere. Allora mi immagino le stanze del governo giapponese, dove c'è il primo ministro, i capi di stato maggiore, i capi dell'intelligence, e uno che dice con le slide, sì, tipo: ah, allora, giovedì inaugureremo il G20 a Tokyo È una grande soddisfazione, però insomma è un grande onore per il nostro paese. E si alza uno addetto al tavolo con un calendario con dei giorni cerchiati in rosso, fa sì, però secondo i miei calcoli, cioè domenica a Godzilla dovrebbero venire le mestruazioni, magari è il caso di posticipare. E niente, volevo chiudere così, con questa bella immagine, Godzilla con le mestruazioni. Cosa chiedere di più se non Alberto Vitale? Grazie per lasciare nel pubblico questa immagine piacevolissima, che anch'io mi porterò dietro. Niente, mi sono tolto la felpa per farvi vedere questa bella maglietta, di cui vado molto fiero. L'ho comprata al mercato, pensate, solo 2 euro. Io compro i vestiti al mercato, anche se ho il sospetto siano usati. Quando ho messo questa maglia, oggi c'era ancora uno dentro. E prima vi ho parlato un po' di me, voglio finire di parlarvi di me dicendo che la mia famiglia, diciamo, io ho due figlie piccoline e un animale, quindi vi parlerò in ordine dell'amore che ho del mio animale, ovviamente. Quindi partirò dicendovi che io ho sempre amato gli animali intelligenti, quindi io volevo un animale intelligente, ma il cane per me non era abbastanza, per cui ho rapito un delfino all'acquario di Genova e lo tenevo nella vasca da bagno, così, ed era bello, comunque piacevole parlare con lui di economia, di politica, perché comunque è molto molto intelligente. E un giorno gli ho chiesto però cosa ne pensasse della politica economica mondiale. Devo dire, ci sono rimasto un po' male perché lui mi ha risposto ed era la teoria dell'anno scorso, quindi sono rimasto malissimo, ho capito che non era poi così intelligente. Poi ricordo era aprile, era il mese in cui di solito faccio il bagno, quindi ho dovuto spostarlo un attimo dalla vasca da bagno, e mi sono fatto il bagno tranquillo, e a me piace poi fare il bagno con calma, con le candele, un po' di vino, un po' di musica. E niente, quella sera ho mangiato tonno. E poi vi parlo un po' delle mie figlie, allora io ne ho due a cui voglio ovviamente, no, a parte gli scherzi, molto bene, si chiamano Alessia e quell'altra. E loro hanno pensato bene, e sono qui per questo, di regalarmi questo libro che si intitola Come fare l'amore a una donna. Penso sia un libro suggerito dalla loro madre, forse perché deve imparare qualcosa. È un libro comunque scritto nel 1970 PT, pre-Tinder, e dà tutti i consigli, diciamo, per riuscire a avere successo con una donna o con un uomo. Adesso sono qua per leggervi, tanto ci sono tanti giovani, so che voi siete abituati ai metodi più veloci, ma questo libro è la saggezza. Quindi voglio leggervi in alcune parti. Allora, innanzitutto, consigli per l'uomo. Quindi partiamo dai ragazzi, poi ci sarà qualcosa anche per le ragazze. Allora, innanzitutto, crea il più possibile un ambiente pulito. Quindi sistema un po' casa se vivi con i tuoi genitori. Dai fuoco all'appartamento e ristruttura se vivi da solo da un po'. Si fa prima. 2. Crea l'ambiente adatto. Allora, se vivi con una fidanzata o una moglie, nascondi le foto della fidanzata o della moglie nei cassetti. Se vivi ancora con tua mamma, nascondi tua mamma nell'armadio. Bene, le foto di te da piccolo con il tuo cane d'infanzia. Assolutamente da evitare, il tuo cane d'infanzia impagliato su un tavolino. Benissimo, le foto di te bambino con il tuo amico d'infanzia. Da evitare, il tuo amico d'infanzia impagliato su un tavolino. Questo è importante perché è un errore che fanno in tanti. Prepara la musica adatta. Scegli musica soft, ballad se lei è un tipo rock, musica lenta se è un tipo romantico. Bene, attenzione, anche le registrazioni della Santa Messa a San Pietro, ma solo se devi scoparti delle vecchie. Questo è un consiglio che io personalmente ho usato. In questo caso, da evitare la salma di Papa Ratzinger impagliato su un tavolino. Questo è un errore invece che ho commesso io. Allora, frasi per invitarla a uscire. Posso portarti a cena da cracco domani sera? Andiamo con la mia Ferrari nuova. Questa funziona, ve lo posso dire. Che dici domani di andare a mangiare una pizza all'ananas? Ah, ovviamente paghiamo la romana. Questo non funziona. Sembrerebbe strano, ma è così. Posso portarti a cena da cracco domani sera? Viene anche un mio amico di vecchia data, Riccardo Scamarcio. Funziona, ma bisogna fare attenzione che lei a fine serata non se ne vada con Scamarcio. Vuoi venire dal Lurido domani sera? Viene anche un mio amico di vecchia data, Amadeus. Non funziona, e inoltre bisogna fare attenzione che a fine serata tu non rimanga da solo con Amadeus. Frasi, incominciamo a salire un po' nel piccante, frasi per farla salire in casa. Vuoi salire da me a bere qualcosa? Funziona, ma solo se prima avete versato un vasetto di sale nel suo cocktail. Vuoi salire da me a vedere la mia collezione di farfalle? Allora, attenzione, funziona, ma solo se le farfalle sono morte, altrimenti passerete la serata così. Vuoi salire da me a vedere la mia collezione di quadri di Picasso originali? Questa funziona, potete usarla. Vuoi salire da me a vedere la mia collezione di quadri di Picasso? Sono tutti falsi, ma del resto anche tu hai le tette rifatte. Non funziona, attenzione. Frasi che funzionano per farle fare l'amore. Sei bellissima, e io me ne intendo, sono un famoso fotografo di alta moda. Funziona. Sei bellissima e voglio dirti una cosa, tra noi non sarebbe solo sesso, sarebbe coinvolgimento fisico ed emotivo, sarebbe l'unione di due spiriti, due anime che si incontrano e si fondono in una sola sotto l'insegna del piacere. Funziona soprattutto se l'avete conosciuta bevendo insieme succo di Kamut e Seitan in un locale vegano subito dopo un workshop di yoga tantrico fatto da un santone indiano. Può capitare, se alcuni di voi fanno questa cosa può funzionare. Attenzione, questa è importante, frasi da evitare. Queste, attenzione, sono errori che fanno in molti. 1. Spogliati e girati. Non funziona. 2. Spogliati e girati e mettiti vicino al televisore che oggi c'è la partita. Non funziona. Un'altra che non funziona, attenzione. Spogliati e girati e mettiti vicino al televisore che oggi ci sono le repliche dei soliti ignoti con Amadeus. Non funziona, non funziona. Allora, frasi che funzionano al risveglio, andiamo avanti, quindi abbiamo passato una bella serata, ma ancora magari potete non sapere cosa fare, questo libro ve lo consiglio, al risveglio. È stata una serata meravigliosa, non vedo l'ora di ripeterlo con te nella mia villa a Porto Cervo. Questa funziona. È stata una serata meravigliosa, non vedo l'ora di ripeterla con te, ma che ne dici se la prossima volta chiamiamo anche il mio vicino di casa di colore? Può funzionare, può funzionare. Attenzione, dal risveglio, frasi da evitare, queste sono molto importanti, errori comuni. 1. Che cazzo sei tu? Attenzione, attenzione. 2. Vestiti che arriva mia moglie. 3. Da evitare. È stato bello, ma sono stato meglio quella notte con Amadeus. Attenzione, sta da evitare. Adesso ve li ho promessi un paio di consigli anche per le donne, in modo che anche voi possiate fare colpo sui ragazzi, anzi qua ce ne sono tanti, quindi fate pure. Frasi per farlo salire in casa. Prendete anche nota tranquillamente. 1. Vuoi salire da me a bere qualcosa? Non te la do, ma ho un sacco di roba da bere. Funziona, funziona comunque. 2. Vuoi salire da me a bere qualcosa? Non te la do e posso offrirti solo una birra analcolica. Non funziona. Attenzione, non funziona. Vuoi salire da me a bere qualcosa? Poi te la do. Funziona, funziona, tranquillo. Vuoi salire da me a bere qualcosa? Non te la do, ma mia nonna ha una certa voglia. Può funzionare. Sapete che io sono sensibile a questa cosa. L'ultima. Vuoi salire da me a bere qualcosa? Non te la do, ma ti faccio un pompelmo. Non funziona, ma ci siete molto vicine. Silvia Conti, a proposito di pompelmi. L'emozione di parlare nello stesso microfono in cui è appena stato detto pompelmo. Prima... È sempre meglio di consigliare con il Prima che effettivamente mio marito ci raggiunga in questa serata, vi parlerò di un mio piccolissimo problema personale, che è che a me cioè nella masturbazione non mi piacciono tanto i supporti audiovisivi, io preferisco pensare ai miei ex. Non so se avete presente quanto la nostra fantasia sia sterminata, la nostra fantasia ci consente di immaginare gli unicorni, che sono dei cavalli bianchi con la criniera, la coda color arcobaleno e le ali piumate. La nostra fantasia ci permette di immaginare noi a 65 anni in pensione con una casa al mare. Cioè la nostra fantasia è davvero incredibile, invece no. Io scelgo di masturbarmi pensando ai miei ex, che per fare un paragone è un po' come se di fronte alla vastità dell'offerta delle piattaforme di streaming io anziché attingere al catalogo di Netflix, di Amazon Prime, di Disney Plus, di Mubi, perché comunque gli amici di sinistra al compleanno mi regalano Mubi, e persino all'archivio di Rai Play, io ogni sera scegliessi di cliccare su Mediaset Play per guardare una tra le 5 puntate disponibili ogni settimana della Signora in Giallo. Per parlare di masturbazione, io sono molto affascinata dalla ricchezza lessicale che esiste per quanto riguarda la masturbazione maschile. Le parole sono tantissime, se consideriamo anche le varianti dialettali sono davvero un'infinità. Vi dico le mie preferite. Allora, tra le mie preferite c'è pugnetto. Cotta, che è una parola tenerissima che proprio rende il gesto frettoloso dei più giovani che si avventurano nel mondo dell'autoerotismo con le loro manine ancora non del tutto formate, magari chiusi nel bagno dei genitori o dei nonni con i pantaloni appena appena calati. E poi un'altra parola bellissima è sega, che trasmette tutto il lavoro di gomito di personaggi vigorosi come i tagliaboschi del Nebraska. E poi c'è un'altra parola che è raspone, l'accrescitivo di raspa, che trasmette, che porta subito alla mente la ruspa e di conseguenza delle orde di muratori bergamaschi in canotta bianca che all'apice del piacere gridano pota. E poi c'è la pippa, una parola che forse un pochino sminuisce la potenza del maschio in balia dei suoi ormoni, ma che rende perfettamente lo stato di catalessi in cui si trova chi si spippola con troppa frequenza e diventa brillante nella conversazione come quel personaggio Disney il cui verso si scrive yuk yuk. Per parlare di masturbazione femminile alla fine abbiamo solo due parole, che sono toccarsi e ditalino, perché sgrillettarsi non la voglio neppure considerare. Toccarsi afferisce a quell'ambito dell'immaginario che è quello delle chat dei vecchi maniaci bavosi che cercano di convincere una minorenne a mandare loro delle foto zozze. La sua versione ancora più viscida è accarezzarsi, che io reputo accettabile solo nel momento in cui si stia chattando con degli animali da compagnia a pelo lungo. E poi c'è ditalino, che in prima battuta rimanda a un tipo di pasta da brodo per anziani, che comunque da quando ho compiuto 40 anni non è così male nel brodino, nella minestra o delle ricette. E in seconda battuta ditalino rimanda all'immagine di un'anziana sarta china sulla sua sedia vicino al balcone durante l'ultimo raggio di sole che le consente di rammendare il suo unico paio di calze con ago, filo e ditale. Possiamo accettare questa disparità linguistica? Secondo me no, ma non ho assolutamente pensato a una soluzione, quindi vi lascio così e ripasso la parola a quel genio di Enrico Godzilla Veronica. Mamma mia Silvia! Cioè, no, ma è bello perché è una serata intellettuali, ma è anche così. Io sono seriamente eccitato. Ora, buonasera, benvenuti. Io sono, l'avete già capito, secondo me, uno di quei tipi geniali, incontenibili, quelli che hanno mille idee al giorno. Oh, e fanno tutte cagare, eh? Cioè, che ci vuole... già hai mille idee al giorno, beh, sei un bel tipino. Ma riuscire a avere mille che fanno tutte cagare, lì c'è del genio, eh? E lì c'è del genio. E io sono fatto così, sono un tipino così, sono fatto così. Che ci volete fare? Che ci volete fare? Ora, io... Tra l'altro, questo qua è l'unico pezzo che non so ed è l'unico che ho provato col pubblico. No, è bella sta cosa, perché secondo me provare i pezzi col pubblico è deleterio. Invece se te lo provi nella cameretta, e devo dire tre cagate tra l'altro. Oh, ok. Alcune premesse storiche. Questa la interpreto molto. Nerone. Sentite? Sì, si sente. Voleva fare il poeta. Adolf Hitler voleva fare il pittore. Charles Manson voleva fare il cantante. Perché vi dico questo? Perché prima di affossare i sogni artistici di qualcuno, dovremmo indagare almeno sul loro eventuale piano B. Per i posteri, per il futuro. Ora lo sappiamo e applichiamo questa cosa che è semplice, semplicissima. Ora è vero anche il contrario. Nick, che è un ragazzo a cui vogliamo tutti tanto bene, lui magari non voleva fare il cantante. Nick, da quando era bambino, il suo sogno era fare, non so, il dittatore in uno stato centrafricano. Noi invece per tutta la vita l'abbiamo instradato, l'abbiamo incoraggiato nella sua carriera da cantante finale, non me ne voglia Nex in sala, abbiamo l'ennesimo cantante mediocre in più e forse ci siamo persi un grandissimo dittatore centroafricano. E non lo sapremo mai! E non lo sapremo mai, mistero! Questa cosa legge a mistero! Io! Scusate se parlo ancora di me, io non volevo fare il comico e secondo me l'avevate captata sta cosa. Io da quando ero bambino, un po' come Neck, il mio grande sogno era fare la bidella alla scuola media in via Tabacchi, qua a Milano. La bidella, non il bidello. Che poi bidella, bidello. C'è l'impiegato statale come bambine, come gli angeli. Non ha sesso. È una figura fatta di luce. È una figura dolce fatta di luce. E quello era il mio sogno. Quello era il mio sogno. Ora inizia il pezzo, pensate. Buonasera, sono Henry Veronica, o come mi chiamano i miei amici, no, c'è anche lui stasera, che palle, che serata di merda, no! Gli amici sono così, sono sempre pronti a tirarti la frecciatina, sono sempre pronti a vibrare la coltellata nel buio, gli amici. Ma forse qualcuno di voi mi ha già visto, mi riferisco soprattutto a te, mi avete già visto, sì, vero? Nei vostri sogni erotici, quelli più inconfessabili, quelli più bagnati, quelli più pruriginosi. Ma che bell'aggettivo è pruriginoso! Quanto è bello quanto è difficile da dire pruriginoso. Perché c'è quel pruriginoso, è difficile. Cioè, soprattutto se uno ha avuto un ictus. Ora, non è il mio caso, almeno negli ultimi 5-10 minuti, ma lì è il nostro Signore che decide, non si sa mai, potrebbe finire così il pezzo, se sarebbe bello, sì, cioè se poi mi viene un ictus adesso, cioè pensa, se mi viene ictus, ok, un po' di didascalico, però che finale, allora le persone che hanno avuto un ictus, mi piace perché in realtà questo pezzo, vedrete che c'è, se, vabbè, ve lo dico dopo. No, le persone che hanno avuto un ictus sono, ne conosco, cioè sono persone molto interessanti da frequentare. Perché hanno un sacco di cose da dire che puoi anche non ascoltare, tre quarti sono incomprensibili. Allora, però, no, vabbè, le hanno da dire. Allora, mamma mia. Ah, mamma mia, ora che se ne dica, io sono un paladino, magari mi scono, della stand up comedy italiana. Ora non so se seguite la stand up comedy italiana, se non la seguite o anche se la seguite ve la spiego in due righe. La stand up comedy italiana funziona così: al terzo comico di fila che sale sul palco e fa un pezzo su Tinder di fila, se non ridete ed è plausibile, almeno avete cominciato a capire un po' come funziona l'applicazione. Diciamo, a questa mission di divulgazione spicciola, scientifica e tecnologica, la stand-up comedy italiana funziona così più o meno. Funziona così più o meno. Io allora mi porto avanti. Ora, io ho quest'idea di una vita un po', io sì, un po' come le bidelle, cioè, o come gli angeli che non hanno sesso, non hanno età. Io in realtà comincio ad avere un'età che in realtà, invecchiando sono migliorato, in tanti aspetti. Uno principalmente, vi regalo questa cosa, anche se è abbastanza nota per chi, ho superato dei piccoli grandi imbarazzi che ho sempre avuto quando ero più giovane. Principalmente, questa è una cosa comune a tanti maschi italiani e non, quando comincio a fare così è perché mi sento proprio una pazza. Comunque dicevo, ho superato questo imbarazzo a farmi vedere completamente nudo dal medico. L'ho sempre avuto, non so se ce l'avete. Ora l'ho superato, ma avete già capito che io sono uno che va avanti, no? Come la storia della, cioè potevo dire solo, vabbè, sono un'ostetrica, no? Anche finlandese, io sono fatto così, no? Cioè io sono uno che va avanti, cioè non sono superato, io ormai quando devo andare dal medico comincio a tirarmi l'uccello già fuori in tragitto in metropolitana, ora bam, ora provate, ma anche tipo le tonsille, bam, uccello fuori in metropolitana, ora provate, lilla, lilla, gialla, quella che volete, anche sul tram, eh? Cioè provate a tirarvi fuori l'uccello, non ci, no, tra i fortunati compagni di viaggio, cioè si crea un brainstorming, cioè viene fuori una discussione, quasi se, e ha la sua dignità medica, clinica anche, sia ben chiaro, eh? Cioè l'ultima parola ce l'ha sempre il mio medico, perché credo nella scienza, ma non si dica che non ascolto l'uomo della strada, ma non si dica, ah Enrico Veronica, non ascolto, lo ascolto l'uomo della strada, lo ascolto e ora mi porto avanti, sono uno che vive nel futuro e secondo me l'avete già capito, no, mi porto avanti e parlo della polemica su Bella Ciao, che in tempi normali sarebbe dovuta cominciare tra un mesetto, una volta la polemica su Bella Ciao era 25 aprile, giorni attigui, ormai eterna, si è dilatata nel tempo, su quelle cose in Italia che si sono dilatate, nessuno, tipo il Grande Fratello, no? Cioè, Grande Fratello una volta durava 3-4 mesi, ormai quanto dura? 9, 10, 11 mesi, cioè, e nessuno dice, raga, cioè, però non possiamo far durare così tanto il Grande Fratello, cioè alla fine la gente si rincoglionisce, cioè, già non è che partiamo bene di base, no? Cioè, come possiamo sperare che finiscano le guerre se non riusciamo a far finire neanche il Grande Fratello? Cioè, partiamo da questo presupposto, e così è la polemica su Bella Ciao. Ora, una volta era solo il 25 aprile, ora ogni occasione buona si è dilatata. Ora, è una canzone che amiamo tutti, secondo me, qua ci riconosciamo quasi tutti nei suoi bellissimi e tersi valori. Io, per esempio, mi spiace un po' che la canzone simbolo della resistenza in realtà non sia, per esempio, c'è da spostare una macchina di Francesco Salvi, perché per chi non la conoscesse era un motivetto abbastanza stupido degli anni Ottanta, cioè avrebbe un po' stinto, no? Quelle tinte un po' fosche e violente di una sanguinosa e terribile guerra civile, e un po' perché grazie alla sovraesposizione per la polemica mediatica, beh, sarebbe entrata un po' di CIA a Francesco Salvi. Che a me sta, oh, che devo fare? Mi sta simpatico a me Francesco Salvi, era un mio eroe quando ero bambino. Poi non mi sembra uno messo bene, secondo me. Comunque, già che parliamo di resistenza, andiamo a chiuderla lì. Qualche giorno fa c'è stata l'anniversario. Insomma, dell'eccidio delle fosse ardeatine. Ora, è anche lì polemica, perché ogni occasione è buona, Va bene, si è fatto polemica, vabbè, la storia la conosciamo, è forse una delle più nere della storia contemporanea italiana. Nel 1944 a Roma la resistenza fa un attentato, uccide 33 soldati tedeschi, e i tedeschi dicono il famoso, ah, per ogni morto tedesco uccideremo 10 italiani, perché i tedeschi erano peperini, Perché erano pepattini tedeschi e l'hanno fatto sti pazzi, hanno strucidato 335 poveracci. Apro una parentesi, i comici normali fanno i pezzi su Tinder, io sto facendo un pezzo sulle fosse ardeatine, questo per farvi capire, cioè, il brio e la presenza delle frequentazioni sessuali con l'altrui che ho io ultimamente, ammesso che ce le abbia, ammesso che servano a qualcosa. Allora, no, perché è bello, perché poi ci metto delle cose che sembrano serie. Comunque, 335 poveracci trucidati alle fosse ardeatine. E la gabola sta qua e non ve ne parla nessuno. Chi ve ne parla? I TG, no, la gabola sta qua e chi ve ne parla? Nessuno. Dal 1944 hanno sbagliato, non si è mai capito perché. Non hanno ucciso 330 persone, ne hanno ucciso 335. Ve ne parlo solo io, Noi dal 44 abbiamo un bonus di mezzo tedesco da uccidere e non ne parla nessuno. Mezzo tedesco da uccidere dal 44, non ne parla. Chi ve ne parla? Ve ne parlano i telegiornali, non ce lo dicono. Ve ne parlano i telegiornali, no, il Veronica ve lo parla, Alex Alger. Ci tenevo a dire Exalger, proprio da testo l'avevo messo, con l'accento così, ma mamma mia, quando sono così, sono più peperino di un nazista, quando mi parte la brocca, ma che tipo di vento, eh? Mamma mia, che birba! Mezzo tedesco da uccidere, e non sapremo mai, tra l'altro... Cosa vuol dire mezzo tedesco? C'è un tedesco molto basso. Mezzo tedesco, mezzo olandese. Niente, lo scopriremo solo quando discuteremo sto bonus. Alberto Vitale! Un improvviso e inaspettato cambio di scaletta, perché abbiamo deciso che dopo le fosse ardeatine ci stava bene una leggera poesia. Quindi mi presento qua nelle vesti di poetessa. Il testo che ho scritto parla di gratitudine e si intitola Out of Office. Grazie. Ricevo con gioia sincera le righe tue scritte, non ora vergate, ma giorni addietro composte, per tutti, a me non pensavi. Grazie, qui sola al mio desco, sommersa di carte, di conti e di cazzi, anche amari, va detto, penavo, ero triste. Adesso che leggo le frasi tue solerti, affettate, assertive, la pena trasmuta. Ai conti e ai cazzi il rancore si unisce. L'invidia pervade coglioni già pieni d'estate e di gente in vacanza a te pari, bastardo. Ma grazie per farmi sapere che alla fine del mese, dopo 6 settimane d'assenza, rientri. Per farmi sapere che fino ad allora la posta non vedi. Per darmi conforto, annotando che al tuo rientro risposta darai. E che se il dilemma mio è urgente, al tuo assistente rivolgermi posso, sicuro, come se quello al suo desco talvolta ci fosse. Giammai lo trovai da settembre a giugno, figurati in luglio, e poi in agosto mai fu al suo posto, mai fu presente. Ma oggi è urgente. E mentre da sola in ufficio mi strazio, la mente mia vola e le mani la seguono. Compongo il tuo numero, stronzo. Pronto? Sei in ferie? Perdono, domando, poi sparo il mio colpo. Ti sento accigliato, la fronte aggrottata, sarà per il sole o perché devi lavorare, infame? Grazie, ti dico alla fine, stringendomi i denti. Lo senti il mio odio distante che accorpa i ricordi di tutti i lavori che col culo per anni facesti, lasciando me nella merda a nuotare, altro che al mare. Non dico, ma penso, che 6 settimane in giorni feriali son 30. Non parlo, ma penso che pur nella stessa azienda e con uguale contratto, come cazzo hai fatto a riuscire a stare ogni anno oltre un mese sui lidi d'estate e d'inverno una settimana in montagna? La poesia. A Natale in Egitto, 8 giorni, a Carnevale tra le calli, 3 giorni, non dico ma conto anche i ponti dei morti, dei santi, liberazione, 2 giugno, un omaggio patrono, Immacolata, Assunta e Pasquetta. L'ho messa, Pasquetta, ora basta, la smetto, scrivimi ancora lo stesso messaggio, lo aspetto. E richiamo sul palco Alberto Vitale. Cara Elena, mi manchi. Da quando ci siamo lasciati non ho più avuto donne. Ricordi il nostro addio? Ricordi quanto fu toccante? Da allora mi sono toccato tante altre volte. Adoravo i tuoi tatuaggi, Elena, quelli che ti eri fatta da ragazza. La freccia sul seno e il bersaglio sull'inguine. Che gioia vedere che dopo solo 15 anni la freccia aveva raggiunto il bersaglio. Ricordi il nostro uccellino, Elena, quello che ci svegliava ogni mattina presto con il suo allegro trillo, puntuale come una sveglia. tutte le mattine alle 7. Me l'avevi regalato tu. Ora l'ho strangolato, mi hai rotto il cazzo di alzarmi alle 7. Ricordi quando ti regalai dei cioccolatini e tu mi dicesti: i cioccolatini finiscono, un diamante per sempre. Poi ti regalai dei fiori e tu mi dicesti: i fiori appassiscono, un diamante per sempre. Allora ti regalai dei vestiti, ma tu mi dicesti: i vestiti vanno fuori moda, un diamante per sempre. Ho sempre avuto il sospetto che volessi dirmi qualcosa, Eden. La prima volta che ci siamo incontrati, ricordo che mi dicesti che ti piacevano i fiori. Io venni a casa tua col trapano e ti bucai la casa. E che avevo capito fuori. Sono sempre stato un po' sordo, Elena. Ah, se avessi un centesimo per tutte le volte che mi hai detto ti amo, ora avrei un centesimo. Me l'hai detto una volta sola, Elena, e tra l'altro a sospetto tu abbia detto andiamo. E poi andammo a vivere insieme. Ogni mattina tu mi bruciavi il caffè, ma non avevi mai il coraggio di dirmelo, ed io lo bevevo senza fiatare per non offenderti. Beh, ti rivelerò una cosa. Anch'io non ho mai avuto il coraggio di dirti che ti sputavo nel latte per vendetta. Ti ricordi quando insieme andavamo nei quartieri poveri? Andavamo con la macchina colma di dolciumi e ci fermavamo davanti all'orfanotrofio. Ricordi gli occhi di quei bambini poveri? Quanti dolci ci siamo mangiati di fronte a loro. A proposito di bambini, ricordo ancora quando mi dicesti che volevi avere dei figli, ma avevi paura del parto. E ridendo mi dicesti: potremmo rapirne uno. Potevi dirmelo che scherzavi. Mi sono fatto 15 anni di galera per colpa tua. Il professionismo di questi quarti d'ora di palco vuoto. Torniamo alla terapia di gruppo, ai cazzi miei. Io ai tempi della scuola non ero esattamente la reginetta della classe, so che farete fatica a crederlo. Questo è il momento in cui dovete concentrare le vostre energie sulla vostra mimica per dimostrarmi che state facendo fatica a credere che io alle medie non fossi figa. Io indossavo sempre una di quelle tute in acetato che andavano tanto di moda all'epoca, tipo Adidas Mattarocca, nera e arancione, che aveva la felpa troppo grande e i pantaloni troppo corti, che mi avevano permesso di vincere il titolo "C'hai l'acqua in casa", che veniva assegnato nei corridoi della scuola. E poi avevo gli occhiali, che ho ancora adesso, l'apparecchio ai denti, i brufoli, il monociglio. Diciamo pure che ero un po' sfigata per i canoni estetici dei crudeli anni 90, anni in cui dominavano modelli femminili come Brenda Walsh e Kelly Taylor di Beverly Hills 90210. Guardando quel telefilm io al massimo potevo identificarmi con Andrea, la secchiona, occhialuta, sfigata ed ebrea. L'identificazione svaniva nel momento in cui a un certo punto del telefilm anche Andrea riusciva a limonare. Io no. Avevo 12 anni, era il 1994 e questi sono i secondi che vi lascio per riuscire a calcolare la mia età attuale. Era l'estate del 1994, a essere precisi, quando le mie amichette mi registrarono la prima musicassetta. E sulle canzoni contenute in quella prima musicassetta io plasmai i miei primi desideri erotici e l'immagine della donna che sarei voluta diventare. Iniziai ad immaginarmi come mi sarei potuta comportare nelle relazioni con l'altro sesso che ancora non conoscevo. Era una cassetta degli 883 e questo può spiegare molto della mia vita. La prima canzone era "Sei un mito", che tutti sicuramente avrete presente. L'inizio è "tappetini nuovi, arbre magique, deodorante appena preso che fa molto chic". Io all'epoca non davo molta importanza a questi due versi, ma oggi ogni volta che li riascolto mi provocano uno shock olfattivo, perché non riesco a pensare ad un mix peggiore di quello di un deodorante per auto appena comprato e un un ventenne pavese arrapato che si è cosparso di dopo barba assecchiate che si mescolano nell'abitacolo di un'utilitaria, quasi sicuramente una panda di seconda mano ereditata dal nonno che fino al giorno prima l'aveva usata per trasportare il letame nella campagna pavese. Nella canzone i due vanno al bar perché il pezzente Pezzali, nome nomen, la tipa non la porta neanche a cena fuori. Ma anche io mi sarei accontentata di andare al bar pur di riuscire a limonare. Quello su cui concentravo la mia attenzione veniva nella seconda parte della canzone, quando a un certo punto lei gli dice «Dai, vieni su da me, che intanto non ci sono i miei», e lui si ferma a prendere una bottiglia perché vuole festeggiare questa figata. Il mio problema di dodicenne con la tuta arancione in acetato era che i miei genitori la sera non si schioravano mai da casa, soprattutto il sabato sera quando Rai 2 trasmetteva degli ottimi film TV gialli di produzione tedesca. Come avrei fatto a portare a casa mia un ragazzo che eventualmente mi avesse portata prima al bar? Non lo sapevo, ma nel dubbio ogni volta che mi capitava di restare a casa da sola io collaudavo ogni possibile location in casa mia dove avrei potuto stappare la bottiglia del mio ospite. Era meglio sul mio lettino, tra i peluche, sul copriletto rosa, o forse era meglio sul letto matrimoniale dei miei genitori senza alcun rispetto per il giaciglio dove ero stata concepita. Era meglio sul divano. Il mio divano era abbastanza comodo da ospitare un amplesso e soprattutto mi chiedevo come era previsto che si svolgesse un amplesso, perché Pornhub e i tutorial dovevano ancora arrivare e cioè la nostra testata medica di riferimento non pubblicava mai dei fotoromanzi sufficientemente esplicativi. Era però chiaro che una volta raggiunto il mio obiettivo, cioè la bottiglia del mio ospite, mi sarei dovuta comportare come la ragazza della canzone, cioè io e il mio ospite avremmo dovuto essere un ragazzo e una ragazza senza paranoie, non dirci io ti amo, io ti sposerei, ma solo avere voglia di stare bene tra noi, anche se soltanto per una sera appena. Risultava evidente che avrei dovuto darla via una volta, una sola, ma senza rompere i coglioni, e avrei avuto l'opportunità di diventare il mito dell'intero quartiere o almeno della sala giochi Jolly Blue, dove il mio ospite al suo ritorno avrebbe raccontato quasi un porno. In quella cassetta c'era anche una seconda canzone, Lasciati toccare, una canzone da cui ricevetti degli importanti consigli di stile. Secondo quella canzone mi servivano un vestitino nero che mi avvolgesse stretto, così stretto che si vedesse quasi tutto, e un condizionatore che mi respirasse vicino in modo che il freddo potesse far apparire qualcosa sul mio seno. Una volta acquistato il vestitino nero, che tra l'altro aveva anche Brenda Walsh, e trovata la bocchetta di un condizionatore sotto cui collocare i miei capezzoli, avrei dovuto mettere in atto la gestualità che tanto arrapava il Pezzali in quella canzone. Avrei dovuto accarezzare la mia gonna con la mano. In assenza del vestitino nero che mia madre non mi comprava perché mi diceva che era da zoccola, e anche del condizionatore perché comunque questa storia si svolge nell'Italia degli anni 90 e se va bene in qualche bar c'erano delle pale al soffitto ma non venivano mai accese per risparmiare energia, decisi di provare subito questa interessante gestualità sui pantaloni della mia tuta arancione in acetato. Io non capivo perché nessun ragazzo mi si avvicinasse conquistato da un movimento tanto sensuale e ancora ignoravo di quanto l'acetato potesse essere facilmente infiammabile a seguito dei ripetuti sfregamenti. La cassetta si chiudeva con Te la tiri, un'opera forse sottovalutata del primissimo Pezzali. La canzone ritrae alla perfezione il profilo della figa di legno della provincia italiana dell'epoca ed elenca tutti i comportamenti che non avrei dovuto tenere se avessi voluto avere un uomo. Nell'ordine mai parlare di oroscopi, mai ballare in un modo che non c'entra niente e mai arrapare la gente senza poi subitaneamente concedersi. una dodicenne sveglia come me non poteva non cogliere l'importanza educativa di quella canzone. E infatti quella canzone è diventata la voce che mi ha guidata, il principio che mi ha ispirata nella seconda parte della mia giovinezza, quella senza più l'apparecchio ai denti e la tuta in acetato. È stato grazie a quella canzone se ho deciso di evadere qualsiasi, ma proprio qualsiasi richiesta di accoppiamento che mi venisse rivolta. Del resto, gli unici tre modelli femminili teorizzati dal Pezzali ed elencati in rotta per casa di Dio sono fidanzata, moglie, troia. Non so voi al mio posto a 12 anni quale tra i tre avreste scelto come modello femminile a cui tendere. Io mi sento di dire che se sono cresciuta un po' zoccola la colpa è di Max Pezzali. Grazie a Max Pezzali e anche a Mauro Repetto e ad Alberto Vitale. Senza vuoto di scena, no, non ci sono abituati il pubblico. E così come davvero è stata una, grazie di essere venuti, è stata una bella sorpresa, siamo più o meno adesso addirittura di arrivo, non vedevo tanta gente, io da qualche serata fa ho fatto un addio al celibato, e, no, era molto bello, un addio al celibato di Cannibali e la ragazza non è neanche uscita dalla torta. E vabbè, avevo detto prima, ho ancora due figlie, fortunatamente. No, due bimbe bellissime, in realtà mi trovo molto bene con loro, è molto bello, noi passiamo molto tempo insieme. A loro sono due femmine, quindi tutte e due gli piace vedere i film di principesse, quindi abbiamo visto Frozen 2, e questo solo lunedì scorso. E hanno però un problema, non riescono ad addormentarsi la sera, ed è il motivo per cui sono qua, e anche per fare un po' di pubblicità, ho scritto un libro di favole, si intitola Favole per dormire, e c'è anche la versione cinese Dolmile per il favole. È un libro molto bello, in realtà, vi dico la verità, in realtà contiene una sola favola, ma quando mi avvicino l'ho letto voglio avere qualcosa di grosso in mano. È un libro di cui vado molto fiero, vi dico la verità, ho avuto anche delle recensioni positive. Mi ha scritto tempo fa una mamma, mi ha detto grazie. Mio figlio non si addormentava mai, dovevo stare sveglia di fianco a lui tutta la notte. Ho letto il tuo libro di favole, i servizi sociali mi hanno tolto mio figlio e ora dormo benissimo. Sono contento, ho anche scritto alla Disney se erano interessati a fare un film d'animazione dalle mie favole. Mi hanno risposto preferiamo fare un porno. Mi sono subito iscritto a Disney Plus. Se lo prendete oggi, ve lo dico, c'è una promozione. Noi regaliamo, per fare atmosfera notturna da favole, una candela di cera col libro. Ne regaliamo una volta sola. La promozione si intitola C'era una volta. È un libro, ci tengo a dire in questo momento, di interesse per l'ambiente, che è un libro su carta riciclata. Quindi io ho usato per scriverlo le letterine di Natale delle mie figlie. Quindi l'altro lato. Quindi il lato bianco, e quindi anche un po' romantico, diciamo, perché da un lato ci sono i sogni, ci sono le favole per far addormentare i bambini, e dall'altra ci sono i sogni di bambini che non si avvereranno mai. Allora, la favola di oggi, se volete addormentarvi fate pure tranquillamente, dopo c'è Enrico, vi sveglierà lui con immagini di Godzilla. La favola di oggi si intitola Il povero pescatore ed il pesce magico. C'era una volta un pescatore molto povero e molto vecchio, con i capelli bianchi, la barba bianca, i baffi bianchi e le sopracciglia nere. Infatti se le tingeva, era il suo unico vezzo. Ogni mattina remava sulla sua barchetta fino a raggiungere il centro del mare. Attaccava all'amo un vermicello squarciandogli il petto e lo gettava in mare aspettando che abboccasse qualche pesce. Ogni tanto, per fare prima, si aiutava gettando in mare qualche piccolo ordigno esplosivo. Boom! Boom! Boom! Qua i bimbi già un po' si addormentano. Boom! Questo era scoppio ritardato. Una mattina vide la lenza tendersi e poco dopo il povero pescatore tirò su un pesce stranissimo, tutto d'oro. Il povero pescatore lo guardò sorpreso e disse: cosa ho pescato? Porca troia, che cazzo di culo! Ma la sua meraviglia fu ancora più grande quando sentì che il pesce sapeva parlare. Mi hai pescato. Porca troia, che cazzo di sfiga! Poi il pesce disse: sono un pesce magico e se mi liberi esaudirò tre tuoi desideri. Il povero pescatore felice accettò dicendo: io ho pochi vezzi, solo queste belle sopracciglia nere, ma ho sempre sognato di pescare un pesce enorme, un tonno. Il pesce magico allora fece vibrare le sue pinne e poco dopo si vide la lenza tirare e la canna a piegarsi. Il povero pescatore cominciò a tirare come un pazzo e con uno slancio che gli costò l'incrinazione di tre vertebre, crack, riuscì a portare sulla sua piccola barca un gigantesco tonno. Il pescatore guardò soddisfatto la sua preda che si diminava in spasmi mortali. In uno di questi movimenti però il tonno colpì con la coda la faccia del pescatore e gli fece un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Sembrava un sorriso, ma in realtà era un taglio profondissimo da cui sgorgavano cascate di sangue. E già i bimbi con le copertine si stanno addormentando. Il pescatore, ancora sanguinante, guardò il pesce d'oro ed espresse il secondo desiderio. «Ho la schiena spezzata, basta Tony», disse. «Voglio un pesce spada che salti qui, da solo, sulla mia barca». Il pesce magico fece nuovamente vibrare le pinne e poco dopo dall'acqua, tra mille schizzi, si vide saltare sulla barca un enorme pesce spada, il quale con perfetta parabola trafisse lo stomaco del pescatore da parte a parte con la sua spada facendogli uscire altri fiotti di sangue. Il povero pescatore cercò di tamponare anche questa ferita. Poi si rivolse al pesce d'oro per il suo terzo desiderio. «Senti», disse, «lasciamo stare i pesci grandi. Fammi pescare qualcosa di piccolo ma numeroso». Il pesce magico fece vibrare le pinne per la terza volta e subito dall'acqua, verso la barca, saltarono 100-200 pesci piranha che cominciarono a sbranare pezzi del corpo del pescatore con i loro denti aguzzi. Poco dopo, il povero pescatore si trovò fermo sulla sua barca. Al tramonto, con la schiena spezzata, uno squarcio in viso, lo stomaco bucato e brandelli di carne che gli pendevano da tutto il corpo. Il pesce d'oro allora gli parlò. «Vabbè, senti, io andrei. Ho esaudito i tuoi tre desideri, quindi ora devi lasciarmi libero». Il povero pescatore, con l'ultimo filo di voce rimasto, gli disse: «Ma vaffanculo, va!» E lo colpì con violenza sulla testa con un remo, prima di schiattare e accasciarsi a sua volta sulla barca. Poco dopo passò di lì una balena che si mangiò la barca, il pescatore del pesce d'oro, e sciolse tutto con gli acidi corrosivi del suo stomaco. Buonanotte e un bacio. Ora siete tutti addormentati, ma per svegliarvi ci pensa il grande finale pirotecnico di Enrico Veronica. Grazie Alberto. Che sera, ma che serata! Chi ci avrebbe scommesso, eh? Io no. Sono messo contro. No, io, anch'io. Ora, cosa volevo dire? Ah sì, io mi sono tenuto il pezzo più brutto per chiudere. Perché ragazzi, ma è una mia risorsa questa, eh. Cioè io non ho una presenza fisica, una parlantina, una sicurezza in me stesso, non so, di un Alberto Vitale, di una Silvia Conti. Io devo sorprendere il pubblico, è la mia unica risorsa. Allora, l'ultimo pezzo, porta il pezzo più brutto. Ora, però parla di attualità, eh. Ma vero, no? Perché dice, Veronica parla di attualità. L'avete visto? Quando parlo senza microfono, cioè, è un po' più alta la voce. Allora, quando Veronica parla di attualità, un po' picchia delle robe del 1984. No, vero, attualità delle ultime settimane. Ora, ha fatto il giro del mondo la notizia, presumo vera, di questa docente, di questa professoressa che in America, in Florida, è stata licenziata perché ha fatto vedere una foto del David di Michelangelo e i suoi studenti. Perché, insomma, c'è il David di Michelangelo, per chi non sapesse, è nudo. Magari dice, no, perché vi confondete con il David di Donatello, che è nudo anche lui. Secondo me sono proprio gli scultori fiorentini che... C'hanno il debole del cazzo. Comunque, Allora, è scandalo, perché è chiaro, è nudo, c'è questo pene esposto, ha fatto scandalo. Cioè, quindi voi, questo adesso apro il mio cuore e vi dico una cosa proprio seria, ma quindi voi mi confermate che i docenti non possono far vedere i genitali agli studenti? No, perché sennò io devo bloccare tutti i curriculum che ho mandato alle scuole, che poi, sì, tra l'altro sono rovinato perché li ho mandati via mail, cioè, naturalmente ho legato delle foto, io... Cioè, anche belle nitide, cioè, sfruttando anche le erezioni mattutine che sono particolarmente fotogeniche, rovinato. Vabbè, anche come docente sono rovinato. Questo capita quando uno fraintende i grandi valori occidentali, oppure non rimane aggiornato. A proposito di rimanere aggiornati, io ora voglio muovere una piccola critica agli autori dei telegiornali italiani, tutti. Ora non so se c'è qualche autore, giornalista di telegiornali italiani in sala. Nel caso non la prenda sul personale, mi sente parlare, poi eventualmente dopo lo show andiamo come dei buoni amici al bancone del bar, ne parliamo civilmente sorseggiando, non so, una bibita, sorseggiando, non so, uno Stock 84, sorseggiando, non so, un amaretto di Saronno, sorseggiando, non so, una vecchia Romagna, sorseggiando, non so, un amaro Cora, sorseggiando... Siccome il pezzo era breve, ci ho messo pezzi di... solo nomi di liquori a caso. La versione originale era 7 minuti, solo di liquori, ma è tardi e ve la risparmio. Comunque, parliamo a questi autori dei giornalisti, dei telegiornali italiani. Siccome è stato tutto nelle ultime settimane, proprio la scaletta, l'ordine, come danno le notizie. Ora, noi aprire un telegiornale con la notizia, ed è capitato spesso, raga, no, è un telegiornale molto così, confidenziale, raga, guardate che entro il 2035 vietare la vendita, la produzione di auto diesel a benzina, a correre ai ripari, magari una bella auto elettrica, ci può stare, eh? L'è andata spesso, come e la seconda può essere, vabbè, già che ci siamo, perché è un TG molto così, amico, entro il 2030 c'è anche da riaggiornare la classe energetica delle case, e bisogna cambiare la caldaia, renderle più isolate termicamente, cioè, e va bene, tu puoi mettere queste due notizie prima, però non puoi mettere come terza. Vabbè, c'è Putin che è cazzato nero, vuole sganciare l'atomica, far esplodere un conflitto mondiale, estinguere l'umanità. Ma scusa, cioè, ero lì che prendevo appunti per il 2035, cioè ero lì, mi stavo sentendo, 2035 la macchina, 2030 la casa, vabbè, ma scusa, ma allora cosa prendo appunti a fare? Ma non va bene, ragazzi, cioè, proprio nella timeline avete sbagliato, non potete mai, ora, io lo capisco, cioè, io mi metto nei panni degli autori dei telegiornali italiani, mi metto anche nei panni delle ostetriche finlandesi, questo era un rimando al primo pezzo, un po' per vedere chi era ancora vivo, Allora, io mi metto nei panni di questi giornalisti, cioè, non possiamo mettere come prima notizia, raga, c'è Putin incazzato come una belva, vuole scatenare la guerra mondiale, l'Armageddon, tra 20 minuti finisce l'umanità, perché dal punto di vista del marketing è chiaro che perdono audience. Cioè, uno dice, vabbè, ma allora cambia, cazzo, guardiamo il TG gli ultimi 20 minuti, cioè. Ma guardiamoci piuttosto, non so, una puntata del Tenente Colombo, cioè. O ancora meglio, sul Colombo, o ancora meglio, cioè, guardiamoci uno di quei bei porno russi in cui si groppano le vecchie, travestite da donne delle pulizie, Voi sapete che sono uno che vive nel futuro, l'avete già capito, non l'avete già capito. Vorrei già parlare di quest'estate brevemente. Ora, quest'estate, l'estate è bellissima, perché c'è il sole, ci si veste leggeri, ci sono i film di Little Tony che fa il militare alla TV. I film con Little Tony che fa il militare sono belli, ma senza eccedere, però, cioè, è un po' come il sesso anale, insomma, cioè all'inizio è bello, vero Dani? Poi diventa solo dolore fine a se stesso. Allora, però ci sono tra le cose brutte dell'estate, perché l'estate porta cose brutte anche, due principalmente. Allora, quegli incivili che abbandonano i cani per le strade cittadine, le autostrade, poveri animali, e poi anche quelli che abbandonano gli anziani, soli, abbandonati anche loro come animali, nelle case assolate, nelle città in preda alla canicola. Da una parte, se ci pensate, poi abbiamo una bestia che ha bisogno di nutrizione, di amicizia, di una mano che le nutra da una parte, e di persone rimaste sole che vorrebbero sentirsi utili e che hanno bisogno di compagnia. Cioè, quindi i due problemi si eliminano uno con l'altro. Basta far mangiare gli anziani dai cani. Ora, poi è chiaro che, sì, è vero, il cane lì per lì rimane satollo, anche se la carne di vecchio è un po' stoppacciosa, però per, cioè, insomma, permane nel suo randagismo. Beh, fa, allora coi cani ci facciamo il ragù, punto. Allora, che poi com'è il ragù dei cani, il ragù di cani? Come lo fa, come lo fai tu, ma con più cani, ma con più cani. Sto mettendo addirittura il microfono all'asta, eh. Vi lascio con una delle mie battute più brutte. Poi c'è il gran finale, però. Vi chiamo per il gran finale, raga, eh. Faccio una battuta orribile e vi chiamo. Questa la interpreto tantissimo! Mamma quanto... Chi mi conosce sa che dice... Questa la interpreto tanto... Tanto, gli piace questa. Mi piace allungare, no, perché era breve il pezzo, l'avete visto che era breve davvero. Cioè. E come disse il chitarrista degli Eagles of Death Metal, in quella drammatica, tragica, nera, notte al Bataclan di Parigi, dopo aver udito la prima, sinistra. Chi è stato? Ricomincio. Oh, se sento un trillo spacco tutto. Ma mica hai visto come la stavo interpretando? Era lo Zenith! Non la farò mai più così! Di chi era questo rumore? Non abbiate paura. Sono una persona tanto per bene. Era tuo rumore? Vabbè, ma tu sei un bravo ragazzo. Per fortuna, perché il prezzo era molto breve, eh? E invece sta battuta potrebbe non finire mai. E come disse il chitarrista degli Eagles of Death Metal in quella tragica, drammatica, nera notte al Bataclan di Parigi, dopo aver udito la prima, sinistra, raffica di mitra. Beh, pubblico difficile questa sera. No, in realtà non abbiamo nulla per il gran finale. Assolutamente saliti, nulla. Saluti. Sì, li saluto. Cioè, adesso dovremmo fare quel momento di autopromozione. No, battute no. Battute? Tu. Io ne ho appena detta una. Ah, vabbè, allora ne dico una anch'io. Questa la dico per la terza volta. Perché sì. Io non mi ero preparato battute per una serata comica. Cioè, ho vissuto un po' tutta, un po' espressione corporelle. Sì, sull'espressione corporale. L'ho vissuto un po' così, ma che splendido pubblico, non l'avevo visto. Cioè... Enrico ha incominciato la serata adesso, sappiamo. Quindi andremo avanti ancora un'oretta. No, perché ci sono queste ragazze che le vedo e sono un po' preoccupate perché gli ho detto che sono un po' malaticcio. Perché no, ho visto che certe mi vorrebbero sbattere. Sai, tipo, questo lo porto a casa e lo sbatto proprio tipo la ciabatta con la, contro la zanzara. Quante volte ti succede? Quante volte ti succede una cosa del genere durante le serate? Ah, beh, sempre. sempre. Non vuoi dire nessuna battuta? Dai, diciamo, quelle sui supereroi. Io non ne ho sui supereroi. Peccato. Va bene, dico una. Ma meglio di bellissime sui supereroi. Beh, dirò... dico una. Va bene. Allora io dirò questa, io con i miei genitori non mi... supereroi? No, non è il supereroe. Io sono sempre stato il supereroe dei miei genitori. Ma non ci siamo mai capiti tanto bene, non mi hanno mai capito tanto bene. Ricordo una volta a Natale, io chiesi loro come regalo di Natale un trenino. Loro a mezzanotte entrarono in camera così. A, E, I, O, U, Y. E dimmi se non è l'idea delle belle. Vai, vai di supereroe, vai. Allora, Batman è uno degli eroi più amati dal punto di vista del marketing e non solo, della storia. Grande personaggio inventato da Bob Kane nel 40... perché io poi gli autori... Allora, perché Batman è forse uno dei supereroi più amati? Perché in realtà è un po'... Perché Batman in realtà ha il potere più forte di tutti, cioè il potere, il superpotere di Batman è il capitalismo, cioè... Come cazzo lo batti? Cioè non ce l'ha fatto Mao? Che ci fa? Catwoman? Cioè, dai raga, te lo leggi? Catwoman ha battuto, il pinguino ha battuto il capitalismo. No, non si può. Ma allora vi dico, gli dico quella su Spider-Man. Prima c'è Silvia. Gliela dico quella su sì, Spider-Man. Sì, il segreto dici. Quella che... raga, io ho scritto anni fa una battuta su Spider-Man che poteva farmi diventare miliardario. E non... È vero. Potrei dirla qua per la prima volta stasera. Forse. Ma hai detto che non le vuoi dire le battute? Va bene, dico una. Ma quante ne vuoi? È il finale scoppiettante. Inserendomi in questo filone di battute sui supereroi, vi comunicherò che in quanto genovese il mio supereroe è De André e quindi andrò a condividere con voi un grande insegnamento che ho ricevuto dal cantautore. L'insegnamento è che dai diamanti non nasce niente, ma se dopo il divorzio li rivendi, una vacanzina a Cuba con le amiche te la fai. Beh, Enrico ha parlato di supereroi, io cambio genere cinematografico. Opalala! Ma dai, non è questo? Scoppiettante, noi siamo così. No, volevo no, dirvi che. Ma questa gente pensa che io sono troppo dell'intellettuale. Noi invece facciamo anche robe tipo facciamo. È vero. Culacci, cioè. Siamo più pane e salame. Forse no? Dovevamo farlo all'inizio serata questo. Adesso vorrei. Adesso ricominciamo. Adesso ricominciamo. Sto entrando in temperatura. Ovvio che sto entrando in temperatura. Sì, qua sì. Si comincia lo show. Il problema è nostro, che dobbiamo fare un sacco di battute per permetterti di fare le tue. Mamma mia, per fortuna ero stanco. Pensate se avessi dormito un po' di più, ragazzi. Mamma mia. Ma devo dire una cosa dopo. No, no, vuoi. No, dilla tu, va bene, è una cosa allora... che non è una battuta, è la verità. Allora, io ho guardato ieri. Cambio genere cinematografico. Io ieri ho visto in televisione il seguito di Castaway, non so quanti di voi l'abbiano visto. Castaway, se l'avete visto, è quel film in cui c'è il naufrago in un'isola deserta che per procacciarsi cibo deve scalare gli alberi, mangiare il pesce crudo, sbattersi di brutto. Il seguito invece c'è lui che arriva in città e non vuole sbattersi e ordina tutto da casa. Si intitola Take Away. Ma la battuta su Spider-Man? No, quella su Spider-Man, no, penso che quella la sfrutterò davvero, non che io non vi voglia bene. Ah, adesso se l'aspettano. Volete la battuta su Spider-Man? Sì! Allora, Spider-Man in realtà è Peter Parker, spero di non aver spoilerato. Vi racconto la vicenda velocemente. Peter Parker, sto ragazzino un po' sfigato anche di New York, in realtà dei Queens. Adesso c'è. Vabbè, inventato da Stan Lee e Steve Ditko. Boh, vabbè, comunque. Allora, che è stato morsicato da un ragno radioattivo, no? E allora da allora ha i superpoteri del ragno. Si arrampica sui muri, ha il senso di ragno. Però c'è una cosa che in realtà i nemici di Spider-Man non sanno, cioè che se io vendessi questo mio segreto a Octopus, altro che miliardario, cioè, in realtà Spider-Man, cioè, se tu gli tiri una pantofola, si spiace che non sa nessuno, cioè. No, voglio dire una cosa vera. Allora, forse avete notato questa cicatrice che ho in testa. Oh, qua finalmente andiamo nel clinico personale. Ora, io ho avuto un incidente, quindi ho una cicatrice anche nel cervello. Qua si ride. Allora, in realtà sono anche una specie di epilessia, ma solo da una parte del piglio le medicine, in realtà, quindi tranquillo. Allora, cioè, no, è vero, si chiama piccolissimo male, perché non è neanche un piccolo male epilettico. E in realtà, da conscio, cioè da sveglio, mi vengono le convulsioni solo a metà faccia. Cioè, che se mi capitasse mentre faccio un cunilingus, cioè quella se la ricorda per 6 anni, cioè, mai capitato, mai capitato. Vabbè, ma lì sono i prodigi degli antiepilettici, dovrebbero fare una... No, perché poi qua stiamo entrando un po' troppo nel personale. No, vabbè, ci sta. Siamo entrati un po' troppo nel personale, no, perché quella del... Il takeaway era bella. Certo. Sto un po' affossando. Io non so se il nostro ruolo sia quello di bloccarlo e concedere a queste persone di andare a dormire. Avete visto? Raga, ma perché dormire? Come fate a sprecare? Io ho dormito 4 ore, guardate. Ma raga, adesso che voglio... Ma stiamo scherzando? Ma di cosa stiamo parliamo? Vabbè, chiudiamo, dai. Ragazzi, Silvia Torti! Enrico Veronica! Alberto Vitale! Exalge! Ah, giusto! Giusto, a proposito di Exalge, sappiate che a parte noi c'è ogni due settimane una serata che si chiama Brutte Persone Night. Sì. Allora c'è due settimane, però diciamolo, cioè, sì, è un variabile, è un non irregolare. Si sa quando sia, a volte martedì, a volte giovedì, però sicuramente loro lo pubblicheranno, i ragazzi dell'Exalge, quindi venite perché è sicuramente più divertente di questa, vogliamo ammetterlo, ma anche un'operazione testicole, assolutamente. E nonché grandi personaggi. Abbiamo parlato della mia cista e il testicolo. Beh, ma vedi le cose. Sei ancora in tempo. Sei ancora in tempo. Raga, c'è una cista io. Cioè, in realtà. No, ma perché? Qualche anno fa era un pisellino, cioè minuscola, no? Poi no, è cresciuta a dismisura, cioè come una borgata di Roma negli anni 60, senza un piano regolatore. Cioè, io sotto non ho più un testicolo, c'ho la testa di Cthulhu. No, ma infatti adesso alla vista non si vede tanto, ma al tatto sì. Quindi magari poi posso passare lo sprotto. Vabbè, per chiudere in bellezza, in amicizia, sì. Faccio passare lo sprotto per i tavoli. È bella sta cosa. Bello. Bello, ultimissima cosa. Buonanotte. Grazie anche a Clark, a Daniele, grazie. Dai, sport.